Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi celebriamo il ritorno di un grande personaggio molto amato dagli appassionati di giallo e noir. Si chiama Achille De Luca ed è un commissario. Le sue storie sono ambientate nel secondo dopoguerra. Che l'autore, beh, è Carlo Lucarelli. L'ultimo suo romanzo con protagonista appunto il commissario De Luca si intitola Intrigo Italiano ed è pubblicato da Einaudi. De Luca è uno dei tanti personaggi seriali creati dalla penna di Carlo Lucarelli. Penso per esempio all'ispettore Coliandro, ma anche all'ispettore Grazianegro. Poi c'era anche il capitano Colaprico che insomma indagava nell'Eritrea quando l'Eritrea era ancora una colonia italiana. Lucarelli, allora, questo è un personaggio che era atteso da tantissimo tempo. Ricordo anche una nostra ultima intervista in cui tu dicevi sto lavorando al ritorno di De Luca. Come mai hai deciso di farlo tornare ora a distanza di quanti anni? Beh, tanti. Direi 16 anni, 15 anni, una cosa del genere. Forse anche di più, sì. Guarda, perché ricordo che l'ultimo Via delle Oche era del 96, quindi insomma siamo quasi sì. A 20 anni. Va bene. Perché allora ora torna il tuo commissario De Luca? Beh, avevo voglia di raccontare delle storie sue perché quello che succede con i personaggi è che ti lasciano aperte delle domande, no? Su quello che sono, come le persone, quando conosci una persona. E il mio commissario De Luca, dopo Via delle Oche, insomma, mi aveva lasciato un po' di domande, volevo sapere dove era andato a finire. Devo dire che siccome le sue storie hanno a che fare soprattutto con intrighi che hanno anche a che fare con la politica, con il nostro passato, insomma, con i cosiddetti misteri italiani, io per un po' di tempo quella narrazione lì l'ho fatta in televisione. Quindi storie di servizi segreti, di mafie. Con un famosissimo programma televisivo, esatto, lo ricordiamo, Blu Notte. Poi Misteri d'Italia, poi La Tredicesima Ora, eccetera. Quindi, come dire, ho sfogato la mia tensione narrativa lì, su quelle dietrologie. Quando ho smesso di farlo, in effetti, ecco che è venuta voglia di scriverlo sulla carta. Esatto, in un altro modo. E così è tornato De Luca. Ecco, De Luca è un personaggio particolare. Abbiamo detto che, anzi tu hai detto che aveva qualcosa ancora da raccontare e da spiegare a te, perché De Luca, lo ricordiamo, è stato fascista durante, insomma, il ventennio, possiamo dire così, e nel secondo dopoguerra, insomma, si capisce che lui ha qualcosa, forse una colpa, qualcosa di cui vuol farsi perdonare, insomma. È vero che tu stai già scrivendo un altro romanzo con De Luca per chiarire ulteriormente? Capirlo. Certo, sì, perché questa cosa del fascista, De Luca nasce da un'intervista che io feci tempo fa ad un poliziotto, che era stato poliziotto nella polizia politica dal 41 all'81, quindi tutta la mezza storia d'Italia, sempre nella politica. E quando gli ho chiesto per chi votava, perché ero curioso di sapere, visto che ad ogni cambio di regime e anche di governo lui si ritrovava a indagare sulle persone che erano i suoi datori di lavoro al governo prima, gli ho chiesto per chi votava, lui mi ha risposto: cosa c'entra, molto arrabbiato, sono un poliziotto. Allora io ho provato a pensare a un personaggio come De Luca che dice sono un poliziotto, non è fascista, non è niente, assolutamente niente, è solo un poliziotto. Però siccome è poliziotto in un periodo un po' particolare, che è quello della Repubblica di Salò, ecco che questo, il non scegliere in certi momenti, significa scegliere anche più pesantemente in un certo senso. E questo è un peccato originale che De Luca si porta dietro, col quale non ha fatto i conti, deve farli, come parte poi della nostra storia, del nostro paese, deve farli, io sono qui in attesa che li faccia pesantemente. Mi piace come parla Carlo Lucarelli perché parla dei personaggi come se avessero una vita propria, no? Tu dici, lui ha ancora delle cose da raccontarmi, beh, ma sei tu che lo crei? Oppure ti, diciamo, in corso d'opera cambia la tua idea di quello che i personaggi vogliono raccontarti? Cambia, io ho imparato. I primi tre romanzi erano una disperazione perché io scrivevo e non facevano mai i personaggi quello che volevo che facessero. Cambiava la trama completamente. De Luca è nato così, era un uomo che doveva essere molto violento, decisionista, doveva venire appunto da un'esperienza brutale che era quella della polizia fascista. Poi mi sono accorto che in realtà era un tizio che ha una gran paura di essere ammazzato, di essere non capito, un sacco di cose. E uno che ha paura non può fare quello che volevo che facesse nel primo romanzo. E quando l'ho imparato ho detto bene, adesso sto a guardarlo. E anche questo romanzo qui io avevo delle idee all'inizio, pensavo che sarebbe stato molto più fragile rispetto a quello che gli succede. Mi pareva che fosse un personaggio che era abbastanza, come dire, arido, incapace di innamorarsi, per esempio. Invece in questo romanzo me lo trovo che si innamora perdutamente come un adolescente di una ragazza, poi io trovo che si è inventato lui, è chiaro che l'ho inventato io, però certo, io non lo sapevo prima. E si è inventato un modo per uscire dai guai, che non racconto ovviamente, che mi ha sorpreso. abbiamo citato alcuni dei tuoi personaggi seriali, no? L'ispettore Cogliandro, poi è andato anche in televisione, l'ispettore Grazianegro, appunto il commissario De Luca. Quando dai voce a questi diversi personaggi seriali, naturalmente cambia la voce di questi personaggi, altrimenti sarebbero tutti uguali. Come fai a capire se è il momento di un personaggio, di un altro, se è una storia, se è uno spunto di trama è più adatto all'uno o all'altro? Sì, riconoscere la voce è importante. Molte volte, di solito, i romanzi che voglio scrivere nascono da un'idea prima che è una specie di domanda. Non so, l'ispettore Cogliandro nacque perché a Bologna c'era la banda dell'Uno Bianca, era il periodo dell'Uno Bianca, ancora non si sapeva che erano loro, quindi, però avevamo la banda dell'Uno Bianca e io volevo raccontare quella Bologna lì e De Luca non me la poteva raccontare perché era un'altra epoca, altra Bologna, altra testa, eccetera. Grazianegro ancora non c'era e allora è venuto Cogliandro. Quando poi ho avuto in mente una Bologna diversa, che è una Bologna molto inquieta, molto strana, di passaggio, che non si capisce, eccetera, e Cogliandro non sarebbe stato in grado di raccontarmela, e allora è arrivata Grazianegro. E così via. Adesso mi è venuta in mente un'Italia, che è un'Italia... Mi piaceva raccontare l'Italia degli anni 50, perché è un'Italia molte volte un po' dimenticata. Di solito quando noi parliamo dei misteri italiani, degli intrighi, della nostra storia, partiamo dagli anni 60, no? E poi partiamo dagli anni 70, 40, certo. Gli anni 70... Quello scorcio, 53, 54, 55, è ancora un po' così, no? E tu lì sei andato a mettere il dito, perché questa storia, la storia che è protagonista appunto di Intrigo Italiano, è ambientata nell'inverno, diciamo, fra il 53 e il 54. Non è un caso che io non abbia ancora detto nulla della trama, generalmente la chiamo le coordinate GPS di un libro per orientarsi, perché nei romanzi di Carlo Lucarelli la trama spesso è un pretesto in realtà per raccontare tutta un'altra atmosfera, però giusto per dare qualche elemento, diciamo che questa volta De Luca deve indagare sulla morte della moglie di un docente universitario di Bologna, a sua volta scomparso in maniera misteriosa in un incidente stradale 2 mesi prima. E in questo caso inizia a collaborare con i servizi segreti, una parola che a Carlo Lucarelli piace da morire, perché è tutto mistero, insomma. È tutto un mondo, certo. È tutto un mondo. In che modo ti sei appunto calato in quel periodo che, come dicevi tu, è poco raccontato dal punto di vista del mistero? Beh, intanto è un periodo interessantissimo. Avevo una serie di giornali, di settimanali, che leggevo quando ero ragazzino, li ho trovati a casa mia. Epoca, oppure la settimana Incom, ambientata in quegli anni, per cui mi piaceva molto questa strana idea di un'Italia che cercava di assomigliare agli Stati Uniti il più possibile, ma era sempre l'Italia appena uscita dalla guerra in un certo senso, quindi questo immaginario l'avevo messo lì. Poi, riflettendo sul personaggio, su De Luca, mi sono chiesto che succede dopo l'ultimo romanzo, cioè il penultimo. Non sarei riuscito a reintegrarlo nella polizia, perché un De Luca finalmente di nuovo a posto a fare il poliziotto moriva lì e finiva la sua inquietudine. E quindi doveva essere un po' borderline. Non potevo buttarlo fuori, perché probabilmente si sarebbe sparato lui, perché non esisteva più come personaggio. E allora mi è venuto in mente che sarebbe finito dove sono finiti molti personaggi come lui: ricattabili, bravi, affidabili da un certo punto di vista, inaffidabili da un altro, cioè nei servizi. Nei servizi che nascevano allora in Italia, si moltiplicavano in continuazione. E in una politica che allora cominciava a sperimentare i dossier, a cavallo di quel periodo lì c'è il caso Montesi, per esempio, Vilma Montesi, quindi dossieri di cui tu parlassi una bellissima puntata di Blu Notte, me la ricordo benissimo, non so se fosse Blu Notte o un altro speciale, era veramente bellissima, il caso Montesi, anzi magari si trova ancora su internet, si può andare a rivedere quella puntata, perché era veramente splendida. Sì, erano i primi anni di gli intrighi politici esatto, legati alla stampa, legati al crimine, quindi usare un caso criminale attraverso la stampa per una ricaduta politica, cosa che poi adesso è diventata, insomma, quasi quotidiana. Ecco, allora mi piaceva questa cosa qui, raccontare quel periodo lì, e soprattutto in una città come Bologna, che in quel periodo lì era incredibile, anche adesso, ma allora era diversissima. Bologna era una città allora, cominciavano solo allora a chiudere i canali, ma fino a quell'anno lì si poteva navigare Bologna, che è una cosa che non immagineresti mai. Era una Bologna che si riempiva d'inverno di neve, coperta proprio, sembrava... E c'è la neve, c'è molta neve in questo romanzo, sì, anche finalmente. Perché è ambientato nell'inverno. C'è anche molta musica, c'è un sottofondo di musica jazz in questo romanzo. Sì, perché Bologna cominciava a scoprire il jazz in quel periodo, c'era tantissima musica. Se si sfogliano i giornali di allora, adesso ci sono le radio appunto private, libere, hai una colonna sonora costante. Ma allora forse la ricerca della musica era anche più, come dire, più sviluppata, ne avevi dappertutto, le canzonette, la gente canticchiava, fischiettava, ascoltava la radio, metteva su i dischi, e a Bologna c'era un sacco di musica tradizionale, la musica folk, il liscio, no? Quelle cose che di solito associamo. Sì, perché c'è un mix del liscio e poi del jazz. Sì, perché mi sono immaginato questo personaggio, questa cantante che fa la cantante popolare perché viene da una Filuzzi, no? Da una orchestrina di liscio, ma ha l'aspirazione di cantare il jazz perché ha una grande voce jazz, eccetera. Quindi si ritrova anche lei in una contraddizione che è tipica dei miei personaggi. Abbiamo parlato prima dei servizi segreti. Io te lo confesso, Carlo Lucarelli, ogni volta che parlo di te, guardo le tue fotografie, guardo i tuoi romanzi, mi viene sempre in mente quella meravigliosa imitazione parodia. Certo. Dico, paura, sì. Perché ormai ti è rimasta appiccicata addosso, no? Ora, al di là dello scherzo, no, del sorriso, secondo te questo tuo modo di vedere la realtà dei fatti, filtrata sempre attraverso il sospetto, il mistero, i depistaggi, ha influenzato a volte troppo il tuo modo di vedere le cose? A volte hai la sensazione di, beh, qui sto esagerando, va, sto facendo troppa dietrologia. Sì, sì, beh, il rapporto con la dietrologia per noi italiani e per quelli che fanno il mio mestiere ovviamente è complesso e anzi va gestito, naturale. Beh, devo dire, io quando sono uno scrittore di romanzi gialli posso permettermi tutta la dietrologia che voglio, anzi, il nostro mestiere è proprio quello di inventarci un'ipotesi possibile della realtà. Se poi è un'ipotesi impossibile, fantastico, bene, allora ci siamo soltanto intrattenuti il tempo, no, di leggere il libro. Se invece, come a volte è successo, è un'anticipazione di cose che scopriremo tra poco, che già sentiamo perché già ci sono. A me è capitato di scrivere appunto Falange Armata, ambientato nella Bologna dell'Uno Bianca, e di scrivere poliziotti dentro la banda, cosa che poi c'è stata. La fiction ti ha permesso di raccontare delle cose che non avresti, sì, potuto raccontare, esatto, in altro modo. Possiamo raccontare, possiamo fare 2 più 2 uguale 4 nella fiction, anche uguale 5 se ci pare. Molte volte purtroppo è 6, quindi nella realtà. Però lì posso permettermi di fare così. Quando faccio altre cose, come quando facevo Blu Notte, no, naturalmente. Devo sempre chiedermi se il pensare c'è qualcosa di strano dietro è supportato dai fatti oppure no. Devo dire che purtroppo viviamo in un paese, in un periodo storico, che continua da un sacco di tempo, in cui molte volte è vero che dietro c'era qualcos'altro. Questa della dietrologia non è una malattia che ci siamo inventati, ce l'hanno fatta venire, perché è vero che poi hanno messo le bombe da qualche parte, chi le ha messe, poi era qualcuno che non avrebbe dovuto metterle e così via. I processi ci hanno portato a tante verità. Quindi alla fine, purtroppo, se siamo dietrologi, come diceva chi se ne intendeva una volta, a pensare male ci si azzecca, lui diceva quasi sempre. Quasi sempre. Noi giallisti diciamo sempre. Sempre, vero. A proposito appunto del tuo utilizzo del noir, spesso ambienti i romanzi in epoche passate, no? Abbiamo visto il periodo del colonialismo in Eritrea, con De Luca nel dopoguerra, insomma negli anni 40, 50, e spesso nelle interviste ripeti che analizzare i misteri del passato fa comprendere la storia di oggi. In questo caso, che cosa ci fa capire Intrigo Italiano? Senza svelare ovviamente, certo, i particolari della, sì, trama, sì, però in che modo ci getta una luce sulla nostra contemporaneità? Sì, beh, ci racconta un'Italia che sperimentava, che insomma continuava a sperimentare, per esempio il sottogoverno. Il fatto di voler ottenere dei risultati che sono risultati politici, che normalmente si otterrebbero attraverso le elezioni, la propaganda politica e l'azione politica, ma di voler ottenere attraverso altre cose, facendo paura alla gente, per esempio, ammazzando qualcuno, ricattando. Un'Italia in cui le persone che sono al vertice cambiano quando cambia, cioè i tecnici cambiano quando cambia la politica, perché sono tecnici che sono legati alla politica. Insomma, alla fine non è che volevo raccontare, come dire, fatti concreti, quanto dei meccanismi che sono i meccanismi di sempre, purtroppo, contro i quali dovremmo combattere, contro i quali cerca di combattere anche De Luca, suo malgrado, voglio dire, involontariamente, perché in realtà alla fine lui cerca soltanto di salvarsi la pelle, ma alla fine è questo quello che fanno, combattere un sistema. E quindi volevo raccontare quell'Italia lì, un'Italia che sembra che nasca negli anni 50, in realtà era l'Italia di prima ancora, ed è l'Italia di poi. Carlo Lucarelli, vorrei concludere questa intervista un po' con un po' di ironia, insomma, il sorriso sulle labbra, mettiamola così. Ho citato prima la famosa parodia, no? Paura, certo. Carlo Lucarelli. Ma cos'è che veramente fa paura a Carlo Lucarelli e qual è il mistero italiano che vorresti veramente riuscire a risolvere, diciamo, ad indagare e a capire fino in fondo? Allora, dunque, questa cosa della paura è fondamentale, anzi io ringrazio Fabio De Luigi perché mi ha fatto scoprire una parola a tutti lì che mi faceva l'imitazione. Se io avessi un centesimo per tutte le volte che ho fatto un selfie in cui facevo paura con qualcuno, io e De Luigi saremmo ricchi adesso. ma non solo, ho vissuto in questa strana schizofrenia per cui mi dicevano allora, lo sai che assomigli veramente alla tua imitazione? È bellissimo, cioè, quando ti dicono così, così è stupendo. Infatti, quindi perfetto. Io non è che abbia paura di tante cose, ho paura delle cose di cui hanno paura le persone normalmente, cioè ho famiglia, ho paura che la mia famiglia stia bene, non stia male, eccetera, eccetera. Paure intime, insomma, personali. Paure intime normali. Io ho paura dei... Da un po' di tempo mi è venuta paura dei granchi, se uno vuole proprio fobia dei granchi, non so avrà perché. Un nome la fobia, sì, che sicuramente poi passerà, però quindi alla fine io ho paura di queste cose qui. I misteri, io nonostante sia uno che vive di misteri e mi piace il racconto del mistero, però non mi piacciono i misteri, cioè mi piacciono i misteri dei romanzi gialli che alla fine sai tutto, i misteri della storia di cui alla fine non sai o perlomeno non ti raccontano esattamente cosa è successo, mi danno fastidio. Quale questo ti dà particolarmente, o quale allora, vorresti dire, beh, magari teoria, con il mio contributo sono sì, arrivato a... Magari, in teoria tutti, allora io ne ho scelto uno, come quando ti chiedono qual è il tuo libro preferito. Impossibile rispondere. E scegli uno, politicamente uno, e io dico La strage di Bologna, non tanto su chi ha messo la bomba, che io sono abbastanza vicino alle su conclusioni della procura, quanto sul perché c'è stato il depistaggio. Se noi risolviamo qual è il contesto che sta attorno a quella strage lì del 2 agosto 1980 in cui il mondo sta cambiando e l'Italia sta cambiando, beh, abbiamo capito parecchio di quello che è successo negli ultimi anni. Grazie a Carlo Lucarelli, ora in libreria con Intrigo Italiano, il ritorno del commissario De Luca. A distanza abbiamo visto quasi di 20 anni, era molto atteso questo personaggio dai fan di Lucarelli. Il libro è pubblicato da Einaudi. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Quanto si legge in Italia? Beh, l'AIE, che è l'Associazione Editori, ha diffuso proprio qualche giorno fa i dati del mercato editoriale per il 2016. E allora vediamo un po' come siamo messi. La prima è una buona notizia, perché il mercato è cresciuto appunto l'anno scorso del 2,3% a valore. Quindi che cosa vuol dire? Che è aumentato il fatturato delle case editrici e di questo siamo molto felici. Però ci sono anche delle brutte notizie, perché cala il numero delle copie vendute. Quindi se è aumentato l'introito delle case editrici ed è calato il numero delle copie vendute, va da sé che sostanzialmente è aumentato il prezzo medio dei libri. Un'altra brutta notizia purtroppo è che diminuisce il numero dei lettori, ossia di chi ha letto almeno un libro non scolastico nell'ultimo anno. I lettori sono diminuiti del 3% nel 2016. Andando nei dettagli si scopre che i lettori forti, ossia quelli che comprano almeno 4 libri al mese, diciamo così, sono stabili. Calano invece i lettori occasionali, insomma chi comprava 2-3 libri in un intero anno adesso praticamente non ne compra quasi più. Alcune curiosità. Nel 2016 sono stati pubblicati 66.505 titoli. Che cosa vuol dire? Se lo dividiamo per 365 giorni dell'anno, ogni giorno in libreria arrivano 182 nuovi titoli. E questo compreso Natale, Pasqua, domeniche, Capodanno e così via. Questi dati, lo ricordiamo, riguardano le vendite dei libri di carta, degli ebook e degli audiolibri in libreria, online e nella grande distribuzione. Non si calcola, come sempre, Amazon, perché la società non diffonde i suoi dati di vendita. Allora, abbiamo visto che in Italia sta diminuendo il numero dei lettori, insomma, come si può fare per fermare questa diminuzione? Anzi, quali strategie comunicative possono funzionare meglio per promuovere i libri e far aumentare il numero dei lettori? Lo abbiamo chiesto ad Anna Maria Testa, che è una famosissima creativa, appunto di riferimento nel mondo della pubblicità, che proprio qualche giorno fa ha tenuto una relazione sull'argomento al consueto seminario annuale della scuola per librai Umberto ed Elisabetta Mauri. E allora sentiamo come messa al momento l'Italia quanto a promozione della lettura. Direi che ci sono, come dicono i consulenti strategici, delle interessanti aree di miglioramento. Le aree riguardano sia i motivi per leggere di più che si raccontano, sia il modo in cui questi motivi vengono raccontati, sia la qualità emozionale dei discorsi di promozione della lettura che vengono fatti. Quindi tre diverse dimensioni. Visto che si fa anche un paragone con i paesi stranieri, possiamo fare qualche esempio virtuoso di buona pratica, appunto, che è riuscita ad avere risultati in questo campo? Posso dire che uno dei miei spot favoriti è spagnolo, è uno spot a bassissimo costo, è stato fatto da un libraio che mi manda Steve Jobs, che presenta i suoi attrezzi innovativi, si presenta su un fondo limbo con accanto un libro che si chiama Book e dice: signore e signori, vi presento una novità assoluta. Si chiama Book, contiene una quantità infinita di informazioni, ha un comodo indice, trasmette direttamente le informazioni al vostro cervello, funziona in assenza di energia elettrica, e va avanti così per 3 minuti, è esilarante. I contenuti ci sono per quanto riguarda libri e lettura, sono tantissimi. Basterebbe raccontarli, comunicarli, trasmetterli in modo non sussiegoso, non paternalistico, non noioso, ma amichevole e motivante. Ecco, a proposito di noia, insomma, a volte anche in passato in Italia sono state fatte delle campagne in favore della lettura che oggettivamente erano un po' noiose e poco accattivanti. Secondo lei quali sono proprio gli errori da evitare nel momento in cui si vuole fare uno spot o comunque una promozione, un messaggio promozionale che inviti alla lettura? La lettura è una passione e le emozioni che la lettura trasmette andrebbero in qualche modo narrate ed evocate. È una passione coinvolgente, quindi il tono relazionale che ha lo spot o il messaggio pubblicitario non deve essere di superiorità, non deve essere pedagogico, non deve essere tu cattivone, dovresti leggere di più. Dovrebbe essere piuttosto gente, leggere è meraviglioso, proviamoci insieme. Un'altra cosa importantissima è che a leggere si impara da piccolini e si impara a leggere tanto e con grande piacere se la lettura è un'abitudine familiare. Quindi la cosa più intelligente e probabilmente più produttiva che potremmo fare è fare una grande campagna per convincere i genitori a leggere ai propri figli piccoli. Tra l'altro noi abbiamo in Italia una produzione editoriale per bambini e ragazzi meravigliosa e questo potrebbe facilitare le cose. Secondo lei il personaggio famoso può funzionare nelle campagne per incrementare la lettura? Credo che sui libri funzioni tantissimo il passaparola, che i libri si possono promuovere anche in rete e che andrebbero promossi anche in rete laddove si trovano non solo i giovani oggi, quasi tutti, che vadano promossi e presentati e raccontati attraverso la complicità e attraverso l'emulazione che nasce tra pari. Quindi francamente farei anche a meno di un testimonial, credo che ciascun lettore possa essere uno straordinario testimone di lettura e forse dovremmo inventare modi efficaci, credibili e accattivanti per rendere ciascuno testimone delle proprie letture e per scambiare testimonianze. Insomma, mi sembra di capire che poi gli spot che funzionano di più sono quelli che usano un po' l'ironia o i riferimenti anche in modo divertente. Noi italiani in questo abbiamo un po' di, come dire, di retrosia, cioè sembra quasi che la cultura sia qualcosa di intoccabile che deve stare su un piedistallo. Questo è uno degli errori che facciamo. Ho proprio la sensazione che sia così, infatti gli ultimi 2 spot italiani presentano questa immagine della cultura, sembrano addirittura fatti da persone che abbiano pochissima familiarità con i libri. Nel primo spot, che è del 2009, noi vediamo una serie di personaggi bianco vestiti come se fosse un po' un giardino dei finzi contini dei poveri che corrono da una parte all'altra di un giardino verde consegnandosi dei libri. Non si capisce davvero cosa stiano facendo, perché facciano quella cosa lì. Nel secondo spot, che è uno spot elegante dal punto di vista dell'esecuzione, è uno spot animato, però il messaggio è: se vuoi sapere cosa significa la parola muro, vai in edicola, in libreria e in biblioteca. Allora, se voglio sapere cosa significa la parola muro, apro un dizionario e anche un dizionario in rete, magari. E poi forse non leggo per sapere cosa significa la parola muro, no? Certo, si legge per emozionarsi, per provare delle cose, per capire. Ma leggo per vivere 1000 vite diverse, leggo per arricchire il mio sistema cognitivo, leggo per diventare più abile socialmente. Un sacco di ricerche americane ci dicono, per esempio, che la lettura di romanzi accresce le competenze sociali, semplicemente perché migliora la comprensione della psiche degli altri. Pensi che bella promessa e che orizzonte ampio c'è in questa considerazione. E noi diciamo leggi per imparare cosa significa muro. Muro poi, caspita, neanche orizzonte, muro, qualcosa che chiude. E questa era la pubblicitaria Anna Maria Testa, con la quale abbiamo parlato di spot per promuovere la lettura. Prima di chiudere, segnalo a tutti gli appassionati di thriller e noir che dal 3 al 5 febbraio a Suzzara, vicino Mantova, si svolgerà il tradizionale festival Nebbia Gialla, dedicato appunto ai romanzi di genere. Ci saranno autori come Massimo Carlotto, Marcello Simoni, diventato famoso con Il mercante di libri maledetti, Matteo Strucul, autore della saga sui medici, molto di in voga insomma in questo periodo, e anche Alessia Gazzola, creatrice di Alice Allevi, l'anatomopatologa, arrivata lo scorso anno anche in televisione. Grazie in regia ad Andrea Roccabella, vi ricordo che trovate sempre tutti i podcast del Cacciatore di Libri su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.